Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay e scoraggiamento. Questa conversazione è dedicata ai ragazzi di tutte le età che si sentono inadeguati ad affrontare la loro omosessualità. Comincio col ricordare che al di là di quello che dice la Chiesa e al di là di quello che pensa la gente, l'omosessualità è considerata ormai da decenni dall'Organizzazione Mondiale di Sanità come una variante normale della sessualità umana. Questa è dunque la risposta ufficiale che la scienza dà ai tentativi di trasformare l'omosessualità in una specie di malattia. Certo, questo non risolve i problemi, perché anche quando i problemi oggettivamente non esistono, rimangono comunque i preconcetti sociali e culturali che spesso sono anche profondamente interiorizzati dagli stessi gay. Mi permetto un'analogia che chiarisce il senso del discorso. I fantasmi non esistono, ma chi nasce e cresce in una società in cui la paura dei fantasmi oscura le menti delle persone, finirà inevitabilmente per avere paura dei fantasmi. Di fronte alla paura dei fantasmi, le reazioni possibili sono due: o vivere la propria paura cercando in ogni modo di difendersi dai fantasmi, barricandosi in casa e ripetendo scongiuri dalla mattina alla sera, oppure uscire normalmente di casa ogni giorno e rendersi conto che non c'è nessun fantasma ad aspettarci. In fondo, per l'essere gay il discorso è esattamente lo stesso. La paura dell'essere gay passa quando ci si rende conto che i gay sono persone come tutte le altre e che gli stereotipi costruiti su di loro sono solo frutto dell'ignoranza e della paura del tutto irrazionale che gli omosessuali siano la rovina dell'umanità. È pure vero che voci autorevolissime si sono mosse per sostenere cose del genere, ma si tratta di affermazioni basate su puri pregiudizi che non reggono nemmeno ad una semplice analisi sulla base del comune buonsenso. A livello statistico si rileva anno dopo anno la perdita di credibilità di simili pregiudizi a fronte di una sempre maggiore apertura a capire che l'omosessualità è realmente una variante normale della sessualità umana. L'integrazione dei gay nella società dovrebbe risultare nettamente facilitata da tutto questo, ma c'è però una complicazione che è costituita dalla invisibilità dei gay, che ci sono, certo, anzi, sono circa l'8% della popolazione, ma non sono identificabili come tali e sono normalmente visti dagli altri come etero. Questo fatto induce in genere i ragazzi o alla mitizzazione in positivo dei gay o all'estremo opposto, alla loro demonizzazione, proprio perché, mancando i riscontri reali, le valutazioni sono tutte presuntive o proiettive. L'identificazione dei gay con quello che è visibile ed è comunemente etichettato come gay è poi l'altra possibile conseguenza della invisibilità dei gay nel loro insieme complessivo. In pratica, poiché l'iceberg gay è sommerso per oltre il 90%, si finisce per identificare l'intero iceberg con la sola parte che emerge fuori dell'acqua. E questo porta spesso ad errori di valutazione ed induce i ragazzi a considerare i gay come una realtà con la quale sentono di avere ben poco in comune. Se un ragazzo avesse cognizione diretta della realtà dei gay non pubblicamente dichiarati, che sono la stragrande maggioranza, si renderebbe conto che quella realtà è composta da persone che hanno esperienze molto affini alle sue e capirebbe finalmente che essere gay sarebbe realmente una cosa assolutamente normale se non ci fosse la necessità di tenere conto dell'ignoranza e delle paure altrui. I ragazzi hanno in genere paura di confrontarsi con la realtà gay degli altri ragazzi perché la identificano con cose che sono del tutto estranee a quella realtà, ma non solo. Temono di essere inadeguati perché ritengono che i gay siano un insieme di modelli cinematografici che vivono solo di palestre e di cure estetiche. Temono che l'essere in forma fisica non perfetta o l'avere qualche chilo di troppo sia una ragione per essere messi da parte e non si rendono conto che ci sono gay di tutti i tipi, da quelli magrissimi a quelli grassissimi, esattamente come accade per la popolazione generale. È frequente l'idea che incontrare di persona altri ragazzi gay debba essere imbarazzante e che si sarebbe certamente sottoposti ad una specie di esame da parte di quei ragazzi con la possibilità concreta di essere rapidamente marginalizzati o rifiutati perché non esteticamente conformi ai modelli in voga. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con la realtà. Tra l'altro c'è un'altra idea molto diffusa e condizionante, e cioè che i gay abbiano la fissa del sesso e parlino solo di quello, cosa decisamente poco realistica. Il sesso interessa i gay come interessa a tutti, ma per la stragrande maggioranza dei gay non è una fissazione, come non lo è per la stragrande maggioranza degli etero. L'identificazione del gay col maniaco sessuale è un'altra delle classiche leggende metropolitane diffuse a forza di barzellette, e purtroppo talvolta con l'avallo di presunte autorità morali che fondano il loro potere sulla prosecuzione sotto altre forme delle antiche cacce alle streghe. Dietro certi preconcetti c'è comunque l'idea assolutamente pregiudiziale che i gay debbano avere qualcosa di patologico. Idee del genere potranno essere sradicate solo molto lentamente attraverso un uso intelligente dei media e attraverso un'educazione al rispetto reciproco. Ci vorranno generazioni, ma ci si arriverà. Se guardo indietro ai tempi della mia gioventù, ormai più che 40 anni fa, e poi mi fermo a considerare la situazione dei ragazzi gay di oggi, resto stupito dai progressi che si sono realizzati e sono portato a credere che il cambiamento accelererà ulteriormente. Per un gay, i preconcetti sui gay svaniscono realmente non quando si hanno contatti, diciamo così, istituzionali con i gay, per esempio andando al Gay Pride o frequentando locali gay, ma quando si creano rapporti di amicizia con altri gay e ci si rende conto che si tratta di persone normalissime. L'esperienza dell'amicizia con un gay porta spessissimo anche i ragazzi etero a mettere da parte i pregiudizi. Il pregiudizio è figlio della paura e della non conoscenza della realtà e svanisce rapidamente quando ci si trova a verificare in prima persona che si tratta solo di un pregiudizio. Io stesso, molti anni fa, quando sentivo parlare dei gay, li identificavo con qualcosa di mitico, comunque con qualcosa di lontanissimo dalla mia vita quotidiana. Pensavo che i gay esistessero solo a San Francisco, oppure nei romanzi e nella letteratura, e non mi rendevo neppure conto che ogni giorno incontravo ragazzi gay del tutto simili a me, purtroppo anche loro costretti all'invisibilità per ragioni di intolleranza ambientale. Ora conosco moltissimi gay e con loro mi trovo benissimo. Vedo molto chiaramente che la loro vita è del tutto simile alla mia. E quando si tratta di persone giovani, mi stupisco di come a distanza di 40 anni i loro problemi siano esattamente identici a quelli che io avevo alla loro età. Penso che per il superamento dello scoraggiamento sia essenziale l'esperienza della normalità gay, cioè sia essenziale rendersi conto di cose ovvie alle quali tuttavia non si pensa mai. In primo luogo, che ci sono gay di tutte le età e che quindi non ha alcun senso pensare di essere fuori tempo massimo. E poi, che conoscere altre persone gay non serve a trovarsi il ragazzo o a risolvere tutti i problemi della vita, ma a trovare un amico con cui parlare, con cui andare a fare una passeggiata, con cui confidarsi, con cui andare a prendere una pizza la sera insieme ad altri ragazzi. L'amicizia non è l'ancella dell'eros, non ha nessuna funzione strumentale nei confronti del sesso. Avere amici gay non serve solo a rendersi conto della loro normalità, ma anche della nostra. Perché negli amici possiamo ritrovare lo specchio delle nostre paure, dei nostri complessi, delle nostre inibizioni. Parlando seriamente con i propri amici gay, si possono di fatto risolvere molti problemi semplicemente abituandosi a non vederli più come problemi. Il dialogo con altri ragazzi gay aiuta a sdrammatizzare, a tenere i piedi per terra, a riflettere insieme, a mettere da parte gli atteggiamenti troppo legati all'emotività e a recuperare un po' di razionalità nell'affrontare anche i problemi affettivi. Tra l'altro, avere amici gay seri aiuta anche ad aprirsi, sempre con la dovuta prudenza, anche agli amici etero e a non considerare i gay come un gruppo chiuso. La prima regola dell'amicizia è il rispetto reciproco, che presuppone il fatto di ritenere l'altro come una persona di cui ci si può fidare. Il sigillo dell'amicizia è la discrezione, il considerare la vita privata dell'amico qualcosa da difendere come se fosse la nostra vita privata. L'amicizia non è una generica indiscriminata condivisione di tutto con tutti. L'amicizia non è una questione di gruppo, ma è sempre e comunque una questione di rapporti interpersonali a due e va coltivata attraverso il totale rispetto dell'altro anche quando non se ne condividono le scelte. Ma attenzione, rispettare le persone non equivale meccanicamente a rispettare sempre e comunque quello che quelle persone dicono. Accade piuttosto spesso che per rispettare i propri amici sia necessario contraddirli o demolire le loro sicurezze, ovviamente accettando che si possano fare lo stesso anche nei nostri confronti. Dare ragione ad un amico e accettare le sue decisioni anche se non si è d'accordo senza spiegare le proprie ragioni significa ridurre l'amicizia a una questione meramente formale. Gli amici veri, qualche volta, possono anche risponderci a brutto muso, ma quando questo accade percepiamo facilmente che non si tratta di un'azione aggressiva ma di qualcosa che mira al nostro bene. Un ragazzo gay può scoraggiarsi, certo, e capita più di qualche volta, ma quel ragazzo deve sapere che la stessa cosa capita a moltissimi altri ragazzi e che creare dei rapporti di amicizia non può che fare bene a tutti perché ci allontana dall'idea di essere soli in un universo del tutto estraneo. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto fuori dal coro.